известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. A boy is born in hot damn Mississippi, surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. E adesso interveniamo, perché tanto oggi di Stevie Wonder ne sentiremo parecchio, perché abbiamo deciso di festeggiarlo anche noi dopo che ieri è stato festeggiato alla Casa Bianca, dove la nuova coppia regnante, Michelle e Barack Obama, hanno dato un ricevimento incentrato proprio sulla presenza e soprattutto sul premio che è stato assegnato a Stevie Wonder, un premio prestigioso, il più prestigioso che esista in America dal punto di vista istituzionale. Naturalmente si chiama Premio George Gershwin, edizione 2009, istituito dalla Biblioteca del Congresso, ritenuto il più alto riconoscimento artistico-musicale di questa istituzione, assegnato dopo che nel 2007 era stato dato a Paul Simon, quindi a un illustre predecessore, assegnato questa volta a Stevie Wonder, perché le motivazioni sono che ha dimostrato un modo di essere America che, se ce la passate, è estremamente in sintonia naturalmente con quello presidenziale. Ma ascoltiamo il presidente e poi la sua signora in toni tra l'altro particolarmente brillanti, anche perché era passata, no, la grande paura del discorso dello Stato dell'Unione, che è stato invece pronunciato ieri. Si sono concessi, come dire, un momento leggero, e anche loro hanno preso toni ad hoc, addirittura un po' sentimentali. Ascoltate Barack Obama. When I was first discovering music, just like Michelle, it was Stevie's albums that I found, and his songs became the soundtrack of my youth. Ecco, questo è quello che diciamo tutti quando ce lo chiedono. Magari a noi non ce lo chiedono, invece a lui, al presidente, glielo chiedono e gli dicono i suoi dischi della sua vita, e lui dice: quando io e Michelle ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati, abbiamo avuto una vera e propria colonna sonora dell'inizio della nostra bella storia d'amore. E la colonna sonora era per l'appunto rappresentata dagli album di Stevie Wonder. Prima che esplodesse un meraviglioso concerto celebrativo gestito da Wonder, con tante ospitate, c'era perfino Tony Bennett, insomma c'era il gota della musica, e poi diciamolo anche il gota di quelli che comunque hanno fatto, no, attivismo e campagna elettorale. Stevie Wonder è stato onnipresente negli appuntamenti che contavano della campagna elettorale di Barack Obama. Questo premio è della Biblioteca del Congresso, ma avrei anche il sospetto che fosse una specie di riconoscimento, no, di debito pagato dal presidente al grande cantante. Ascoltiamo anche le parole così di lode, di affetto da parte di Michelle Obama. Years later, when I discovered what Stevie meant when he sang about love, Barack and I chose the song You and I as our wedding song. Avete capito? Addirittura la wedding song, la canzone del matrimonio di Barack e Michelle, è una canzone firmata da Stevie Wonder, si chiama You and I. L'ascoltiamo tra pochi minuti. Peraltro, come dire, è bello, no, dire a Stevie Wonder: sei mio amico, vieni un po' a suonare a casa mia stasera, che ho riunito un po' di amici. Lasciamo perdere un momento le facezie, ma restando in ambito washingtoniano, vi do qualche notizia tra le ultime pervenute. Prima di tutto una presa di posizione appena espressa da Barack Obama in un discorso finito non più di 3 minuti fa. Ha detto: il mio budget è un budget onesto. Lo ha fatto mentre presentava la sua manovra di bilancio oggi all'Executive Office Building all'interno della Casa Bianca. Ha detto anche, togliendosi un sassolino nella scarpa, che in passato altri bilanci per anni non hanno detto la verità. Pensate, indovinate un po' a chi stava pensando mentre diceva queste parole. Un dato importante è che è stato finalmente trovato a un mese abbondante dall'inizio dell'amministrazione Obama il ministro, il segretario del commercio. Si tratta, come vi avevamo già preannunciato ieri, dell'ex governatore dello stato di Washington Gary Locke, che finalmente dovrebbe sedere su questa poltrona, salvo incidenti. Vi ricordo che ben in due sono caduti a un passo dal traguardo di questo ministero, nell'ordine il governatore del New Mexico Bill Richardson e poi il senatore repubblicano del New Hampshire Judd Gregg, un tentativo bipartisan andato non a segno. Locke, tra l'altro, si distingue perché è stato il primo governatore di uno stato americano di origine cinese, e ci risiamo con la questione multirazziale che sembra così al centro, no, della politica di Washington di queste ore, anche se per quanto al centro poi non è molto al centro per quello che riguarda il Partito Repubblicano, se è vero che è stata giudicata negativamente l'apparizione di Bobby Jindal, il giovane governatore della Louisiana, incaricato ieri di rispondere per le rime alla proposta espressa da Barack Obama nel suo Stato dell'Unione. Jindal ha fatto del suo meglio, ma non è piaciuto in genere un po' ai commentatori, secondo me anche un po' severi, perché insomma quello che stava facendo non era facile, no? Al momento in un certo senso proprio dell'investitura, della esposizione di un metodo, tra l'altro celebrato in modo così pomposo da Barack Obama, diciamolo chiaramente, poi arrivare dopo per ultimi, alzare il ditino e dire buongiorno, io sono Bobby Jindal, sì sono quello mezzo indiano, adesso risponderò io alla proposta del presidente, e fargli le pulci non è un compito semplice. Jindal non l'ha fatto con particolare aggressività, l'ha fatto anzi con una certa timidezza, ma insomma non mi sembra così disastroso, al punto che fior di strateghi repubblicani, ad esempio David Johnson, ex stratega di Bob Dole, uno che peraltro ha preso botte a più non posso in ambito elettorale, comunque parlando a nome di molti compagni di partito ha dato la seguente sentenza: Jindal è già scoppiato, quindi già se ne vogliono liberare. Brit Hume, anchor della Fox News, di simpatie conservatrici, anche non ha fatto molti complimenti, ha detto il discorso era migliore per iscritto che nella interpretazione di Jindal, non è certo stato un grande esempio di abilità oratoria di una America che evidentemente si è abituata male, o di un'America repubblicana che vuole che al più presto anche il partito repubblicano, il Great Old Party, esprima un uomo capace di tenere testa a Barack Obama, ma non è un compito semplice, perché Barack Obama tecnicamente è un fuori classe e non è facile arrivare a quei livelli. Jindal ha detto: non è quella di Obama la maniera di rafforzare l'economia, creare posti di lavoro e costruire il futuro, la forza dell'America non sta nei governi ma nello spirito degli americani. È stato un po' sulle generali. Michael Gerson sul Washington Post, facendo un bilancio, no, di questo fenomeno Jindal, un fenomeno che si è acceso e spento nel giro di 48 ore, dice che secondo lui comunque il governatore della Louisiana continua a essere l'anti Sarah Palin. Tanto Sarah Palin è populista, rumorosa, un po' scandalosa, tanto Jindal è disciplinato, diligente, e secondo questo giornalista del Washington Post gli ricorda Bill Clinton nella sua capacità di rispondere con competenza e entusiasmo a qualsiasi domanda. Entrambi sanno parlare delle cose più complesse come se fossero in una conversazione di salotto a tarda sera, quindi per Jindal una bocciatura, ma non definitiva, voglio. C'è un bel tempo prima che si facciano, no, le schiere per scendere magari in campo per un'eventuale riconquista della Casa Bianca, cioè un anno e mezzo, due anni, e anche Jindal avrà modo di rafforzare la sua preparazione. Ancora qualche ultimissima ora da Washington, sempre nel discorsetto appena pronunciato, Barack Obama ha sottolineato l'impegno storico per la riforma della sanità, che sembra a tutti gli effetti davvero il grosso prossimo passo che Barack Obama sta per compiere. La settimana prossima vogliamo approfondire questo argomento, perché si era tentato più volte, la presidenza Clinton c'era andata anche vicino, ma insomma qui d'improvviso con una forma di tassazione violenta peraltro, che riguarderà soprattutto l'America più abbiente, ma Obama vuole rompere gli indugi e arrivare alla garanzia di assistenza sanitaria generalizzata per tutti in tempi brevissimi e soprattutto in tempi operativi, anche in un momento difficile come quello attuale. Non a caso deve convivere con le proteste repubblicani che dicono: ma è proprio questo il momento per mettere a posto la sanità, il momento in cui il paese va a fondo? E Obama però risponde: sì, è proprio questo, anche e proprio perché il paese va a fondo. Poi ha promesso tagli delle spese per 2.000 miliardi di dollari per riuscire a mantenere il deficit del paese sotto controllo. Insomma, Barack Obama si sta dando molto da fare, la sua amministrazione ormai lavora a pieno regime. I risultati si vedranno tra qualche mese. Oggi, più avanti nel programma, approfondiremo un aspetto che durante il discorso dello Stato dell'Unione è rimasto veramente in secondo ordine, ovvero che cosa succederà in Medio Oriente, che cosa succederà del famoso ritiro molto annunciato, molto strombazzato in campagna elettorale. Si parlava di 16 mesi dall'insediamento, adesso si parla di qualcosa di più, ma si parla di una data definitiva. Attorno alle 4:30 approfondiamo con un ospite il discorso in questione. Ma torniamo alla coppia regnante, torniamo al famoso giorno in cui si scambiarono gli anelli e sullo sfondo suonava questa musica. Violino, quanto zucchero in questa You and I, secondo me del periodo più oscuro di Stevie Wonder. Noi l'abbiamo messa per rispettare il volere presidenziale, insomma è meglio quando Stevie Wonder, come si dice, no, ti fa un po' agitare, shake your booty, no? un po' muovere i piedi. Io non so, prendo nota, perché siamo gente diligente da queste parti, del messaggio di un anonimo ascoltatore, come si dice, che però ci pone una questione grossa, soprattutto in questi tempi di crisi, di depressione, non si sa se con la D maiuscola o minuscola, e ci chiede questo simpatico ascoltatore: scusate la curiosità fuori luogo in questa valle di lacrime, ma il cane l'hanno comprato o no? Il cane, il famoso cane di quella razza micidiale che avevamo, di cui non adesso vorrei che tu mi recitassi il nome. Le foto erano bruttissime. La roba portoghese, un cane orrendo, non so, gli animalisti ci sbranano. Si può dire un cane orrendo. Ma era una roba tipo peruviana, qualcosa del genere. Sì, no? Portoghese, peruviano, un cane che comunque è la risposta che mi viene a dire, non l'hanno ancora trovato, caro ascoltatore, perché hanno voluto la razza strana. Sono al negozio di cani e quello, il commesso ha detto Mr. Barack deve aspettare, ci vuole tempo, quando ne troviamo uno sulle Ande. Ma comunque non vi preoccupate, io vi dico una cosa sola, insomma, avendo ormai un minimo di esperienza, vi posso garantire che quando arriverà il cane il mondo lo saprà, eh? Express yourself. Express Yourself, doppia faccia oggi, i vostri pareri, i vostri punti di vista su due argomenti, uno che discende da ieri, ovvero lo zoppicamento della prospettiva bipartisan lanciata in grande stile da Barack Obama, poi così destinata sembra a restare più teoria che pratica, e poi introduciamo il tema Tibet, che rappresenta uno degli argomenti importanti della seconda parte del programma. Allora, sul bipartisan, dunque, due messaggi su cui riflettere, sono anche abbastanza complessi ma meritano di essere segnalati. Alessandro dice: credo che Obama faccia bene a crederci, e per modificare il rapporto di forza con i non collaboratori e gli oltranzisti basterebbe giocare a carte scoperte, dicendo agli americani che chi governa è disponibile a fare politica bipartisan per migliorare la vita degli americani, mentre chi si oppone dovrà rispondere agli americani stessi. È un po', insomma, la speranza che ha Alessandro in questo messaggio. Mentre Umberto scrive in maniera un po' contorta, però insomma io provo a riassumerlo: è un filo sottile tra l'essere più solo American sotto il fuoco nemico e la rendita di posizione della critica dura e pura, anche per ricostruire i cocci dell'Old Party, quindi del Partito Repubblicano, e per inaugurare la corsa alla leadership. Pino aggiunge: ovviamente sì, lui ci ha creduto, ma per due giorni. È chiaro che in campagna elettorale ha usato il suo savoir-faire, il suo charme, ciò non vuol dire che non sia una persona capace, che ci sappia fare anche in termini di furbizia. Orazio osserva che finalmente il presidente Obama incomincia a scendere coi piedi per terra e a diventare forse un presidente come tutti gli altri, e aggiunge: speriamo, insomma, così l'ipotesi bipartisan di Obama nella vecchia Italia non è che raccoglie proprio tantissime adesioni. Abbiamo poi parlato di Tibet, perché si è festeggiato il capodanno tibetano, sono cominciati, anzi i festeggiamenti durano 15 giorni, e una sequela di boicottaggi, veglie, proibizioni, appelli del Dalai Lama, insomma il mondo d'un tratto si è ricordato, Italia inclusa, prime pagine sonanti. Oggi, d'improvviso, dopo mesi e mesi, si è ricordato di quel punto di crisi, no? C'è la certezza, però noi ormai, anche un po' consumati, la possiamo testimoniare, che tra un paio di giorni ce ne scordiamo nuovamente. Questo genere di situazioni locali vengono di solito comprese anche in modo superficiale, no? Strumentalizzate, spesso addirittura sfruttate dai media. Io ho voluto ricordare nell'appello su Facebook le magliette, quelle insomma patetiche magliette Free Tibet che arrivavano in omaggio con un settimanale di moda, mi sembrava insultanti per tutti, proprio a 360 gradi, come dice la nostra rubrica. E vi abbiamo chiesti: voi vi siete fatti un'idea chiara su ciò che accade dalle parti dell'Himalaya? Allora, cominciamo da Giusy, che è decisamente sconsolata, perché scrive: a me pare che il Tibet sia sempre più solo a combattere per la sua libertà. Nessun paese osa mettersi contro la potente Cina. Io provo a dire lì la Francia, forse. Poi c'è Giovanni, che è straordinario, è immaginifico, dice: fenomeno Tibet declassato a livello di banale reumatismo del pianeta, ricompare sporadicamente con fastidi poco dolorosi e sopportabili dai soggetti afflitti. E poi non è di Facebook, ma non posso non leggere la mail, una parte della mail che ci ha scritto il nostro amico Gino Guarda dal nord-est, che insomma è molto più pragmatico, quasi ai limiti del cinismo, non si offenda l'amico Gino, perché dice: in un periodo di grave crisi torna sulla spedizione di oltre 200 imprenditori che sono andati in Germania dalla Cina a spendere soldi e a fare accordi, e quindi dice però saltano i due paesi che più si sono esposti con il Dalai Lama, cioè la Francia, e ricordate, dice la signora Bruni con la pashmina bianca, e l'Italia, che si diverte con le cittadinanze onorarie. Quindi bisognerebbe fare forse più contratti e pensare meno al Dalai Lama nell'ottica da imprenditore del nostro Gino Guarda. Tosto impressionante la testimonianza offerta invece su Facebook da Lucio, che scrive: una minoranza di oscurantisti nostalgici di una bieca teocrazia che strappava i bambini alle famiglie per farli monaci se avevano i segni del Buddha, si oppone alla modernizzazione e alla civiltà contemporanea come gli islamisti, anche se con metodi per ora più soft. Questa è una lettura angolare, ma però è la critica di Pechino al Tibet. Poi io sono segnato dal caso Santelli, a me ormai le letture angolari così una scossa me la danno. Sandro dice: ricordando Kipling, la religione non statalizzata dà fastidio al regime in quanto percepita come strumento dissonante al coro. Andrea dice: mi risulta che ci sia una sorta di cancellazione etnica e culturale con l'introduzione nel territorio tibetano di coloni cinesi. Francesco: certamente i tibetani non sono cinesi, andiamo in Europa, i baschi non sono spagnoli, gli altoatesini non sono italiani. Questa è l'amara considerazione della storia dei soprusi dell'umanità. Abbiamo ascoltatori che volano alto. Argomento comunque spinoso però questo del Tibet. Gianfranco: non ho mai dato prevalente importanza al Tibet rispetto ad altre aree geografiche, implicitamente meravigliandomi dell'interesse di tutti per il Tibet e per il Dalai Lama e invece non per altri paesi del mondo. Invecchio, scrive Gianfranco, e la meraviglia resta ancora. Mauro: e voi sapete cosa capita sulle isole Diego Garcia in Sudan o nella striscia di Gaza, ma con precisione? Ecco. Alessio: è in atto un genocidio culturale, bisogna sapere altro. E poi vi domando: in Tibet i giornali di moda possono allegare magliette con la scritta Free Tibet? Beh sì, però io le magliette con la scritta Free Tibet le farei, come dire, in un ambito un po' più informato, via, diciamola così, via. Ci siamo al disco, ci fermiamo qua. Il tempo corre. Il resto dopo. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Dunque, Joe Biden, che come al solito è uno che segue una velocità propria anche nella sua interpretazione della vicepresidenza, insomma parla un po' quando gli va, dice cose grossissime in occasioni inattese, poi magari invece quando c'ha un appuntamento di rilievo racconta barzellette, non so come dire. Ebbene, in un momento un po' sbagliato, ovvero ieri, in cui al centro della scena, bene o male, c'era il discorso del suo capufficio Barack Obama, se n'è uscito con una notizia molto grossa, che quindi ha vissuto una vita un po' difficile, perché doveva per l'appunto convivere, no, con il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato da Barack Obama. E nel corso del Today Show sulla emittente NBC, Joe Biden a un certo punto ha parlato di Iraq, anzi per meglio dire ha parlato di ritiro e ha dato una data, ha detto: adempieremo agli impegni presi in campagna elettorale, e la data sarebbe fissata poco dopo i 16 mesi promessi in tempo di elezioni e cadrebbe esattamente nell'agosto del 2010, ovvero 19 mesi dopo l'insediamento di Obama. A questa notizia, su cui ora cercheremo qualche commento, ne vanno aggiunte almeno un paio d'altre. Una che è di fonte Bloomberg, Bloomberg fa sapere che sarebbe pronto un piano per battere cassa, per chiedere quattrini extra relativi ai fronti di guerra. La cifra esatta sarebbe di 75.5 miliardi di dollari per le operazioni in Iraq e in Afghanistan, e andranno a cadere sul budget fiscale 2010, e questa richiesta verrà mandata al Congresso dalla Casa Bianca nelle prossime ore. Tra l'altro tiene conto anche di spese, molte spese già affrontate, ma poi soprattutto c'è uno scenario interno iracheno molto particolare, dove da un lato arrivano notizie preoccupanti, e di poche ore fa la notizia che 2 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite a Baghdad con l'esplosione di un ordigno nei pressi dell'università. Si trattava per l'appunto di un pulmino di studenti, quello che è saltato per aria a causa di questo attentato. Quindi gli scenari sono assolutamente, continuano ad essere assolutamente d'emergenza. Però a fianco a questo ci sono invece degli scenari più rassicuranti, ad esempio quelli elettorali, un calendario estremamente ravvicinato, estremamente denso di appuntamenti elettorali, che danno l'impressione che l'Iraq a tutti gli effetti sia gracile, fragile, ma sia una democrazia, e da una democrazia naturalmente un esercito straniero può andar via a cuore più leggero che non da una democrazia, non so come dire, o comunque da una situazione di caos. È il momento, bisogna semplicemente, come consigliano gli esperti, essere molto elastici, quindi sì, fissare una data ma poi pensarci sopra. Giriamo la domanda a Andrea Nativi, il direttore di RID, rivista italiana di difesa, nonché di RISC, che è una rivista assai interessante di geostrategia. Lo sappiamo, in questo momento ad Abu Dhabi, quindi non lontano dalle zone di interesse, ma lo salutiamo con gran piacere. Nativi, salve. Buonasera a tutti voi. Allora, c'è questo annuncio, come lo pigliamo? Ma io direi che intanto è un bel annuncio, direi stile Obama, ovvero sia è un annuncio che gli consente di ottenere il risultato mediatico e di consenso desiderato, al tempo stesso gli dà un amplissimo margine di manovra, un po' come ha fatto con Guantanamo, perché intanto ha spostato la data al 2010 agosto e sono comunque 3 mesetti in più. E poi c'è la scappatoia, perché dice che in ogni caso potrebbero rimanere truppe anche dopo questa data per dare supporto alle forze irachene. Certo. E questo è un concetto un po' elastico, appunto, che secondo molti vorrebbe dire anche 50 o 60 mila soldati. Certo. E 50.000, 60.000 soldati, contando che adesso ce n'hanno circa 140.000, non sono pochi. Certo. E su questi 60, 50, 60.000 che rimarrebbero dopo l'agosto 2010, non c'è neanche una data di scadenza, per cui si potrebbe in teoria pensare che si arrivi al dicembre 2011 concordato con al-Maliki. Certo. Ma Nativi, aspetti, ma non è che andarsene lasciando lì 50-60 mila soldati, non so come dire, sia un po' andarsene da vincitori, cioè non andarsene alla vietnamita con l'ultimo marine attaccato all'elicottero? Qui l'America se ne andrebbe, insomma, con la prudenza, i tempi propri, no? E la solennità di chi bene o male ha condotto una campagna con dei risultati. Ecco, diciamo che Obama raccoglie il frutto della seconda parte della strategia irachena di Bush. Bush certo. Ha versato il latte, e vabbè, ma l'ha anche raccolto. Certo. Nel senso che adesso Obama può tranquillamente uscire dall'Iraq e spostare le truppe sull'Afghanistan, perché dopo anni buttati veramente al vento, finalmente gli Stati Uniti hanno imboccato il giusto approccio alla questione irachena. Ora bisogna solo avere l'accortezza di non dare retta a chi, come Nancy Pelosi, dice al massimo 20.000 uomini dopo il 2010, che sono frasi dettate probabilmente con un'agenda di politica interna in mente, ma che rischiano di mandare, lasciatemelo dire, in vacca tutto quanto è stato fatto con la dottrina Petraeus in questo ultimo tempo. Insomma, proprio non. Beh, vogliamo non dire che però che il lavoro non è fatto. Da un lato, temo, suppongo, ci sia anche un discorso economico che un'America malconcia come quella attuale forse dovrà tenere presente. Dall'altro, a lei che frequenta con particolare interesse le strategie in scenari di questo genere, i militari che dicono? I militari quali non vogliono assolutamente essere privati, tra virgolette, della vittoria e non vogliono restare in Iraq un minuto in più di quello che è necessario. Questo vuol dire che il comandante non vuole avere una time schedule ben definita, perché nessuno può guardare nella palla di vetro e dire oh, ad agosto 2010 le cose in Iraq andranno meravigliosamente bene, tanto più che a dicembre ci sono le elezioni parlamentari in Iraq. Quindi il piano di ritiro, in ogni caso dicono i militari, deve essere significativo, potrà essere significativo dopo questo appuntamento, ma per i prossimi 10 mesi non se ne parla, anzi in teoria in concomitanza con le elezioni ci vorrebbe uno sforzo in più. Mettiamo che lo sforzo in più non ci sia, ma certo non è il caso di esagerare con i ritiri. Infatti, a quanto mi risulta, delle brigate combat che sono attualmente in teatro, fino a dicembre al massimo ne andranno via 2, non di più, su 14. Ecco, per concludere, una frase che ha detto prima, raccogliendo il latte, gli americani hanno capito come fare. Vogliamo provare, allora, salutandoci, a definire il modo giusto in cui l'America ha imparato a costruire, no? Il famoso problema più volte messo in causa agli americani, ottimi nell'intervenire. Quand'è che le cose hanno svoltato? È stato un fatto numerico, è stato un fatto di atteggiamento? Dove vogliamo collocarla questa bandierina, come dire, che volge al positivo? Ma io direi sicuramente non prima del 2006. Secondo me fino al 2006 siamo andati proprio male. Poi hanno cominciato a capire, poi è arrivato Petraeus, e non solo lui ovviamente, la dottrina della Surge, la dottrina dell'ingaggio dei sunniti anche a livello locale, la pressione su al-Maliki e il governo centrale, un modo di impiegare le truppe molto più attivo anche se rischioso. Infatti hanno avuto perdite più elevate all'inizio, sì, della Surge, ma poi ha pagato, e soprattutto una ricostruzione delle forze di sicurezza irachene che è stata fatta seriamente e che adesso bisogna fare anche in Afghanistan. Ecco, ma questo Obama come capo in testa, perché adesso bene o male comanda lui, no? Anche dal punto di vista come si presenta? Molta delega, come lo vogliamo inquadrare? Direi che intanto ha scelto Robert Gates, ha confermato Gates al Dipartimento della Difesa come segretario, il che è un segno importante, e poi non si mischia più di tanto, nel senso che lascia andare avanti Biden sulle scelte, sui programmi della difesa sta zitto e buono. Adesso presenterà un bilancio per il fiscal year 2010 che non penalizzerà la difesa. Ecco, il bilancio core intendo, quello, certo, a cui lei si è riferito prima è il bilancio straordinario di guerra, certo. Se gli bastano 75 miliardi di dollari ha già ottenuto un buon risultato, perché certo, adesso è quasi il doppio, certo. Però la tendenza è questa, cioè mi sembra che Obama anche sulla storia dei missili con i russi si muove, ma si muove senza fare pazziate, mettiamola così, il che è molto positivo perché rischiava veramente di fare dei grossi danni. Bene, vedremo domani il discorso, se arriva questa ufficializzazione. Grazie comunque dei pareri espressi da Andrea Nativi, che vi ricordo è il direttore di RID, rivista italiana di difesa, e di RISC, rivista di geostrategia. Staring right at 2018, as if mankind's atrocities, the man has no history. But just a glance at life in 2000 BC, we find traces of man's inhumanity to man. There's no mystery. Any means to have cleansing of one's ethnicity. Nostro quotidiano dibattito su Facebook c'è un intervento di Marco parlando di Tibet che fa un appunto, una provocazione interessante. Dice: sono in attesa delle prossime Olimpiadi cinesi per leggere sui giornali nuove notizie dal Tibet. Oppure voglio anche citare quella di Gabriele Battaglia, che tra l'altro è stato anche un nostro collaboratore qui nel programma che state ascoltando, un fotografo che più volte si è reso protagonista di spedizioni in Oriente, in Cina, nello stesso Tibet. Scrive: dirò qualcosa di molto impopolare, il Tibet è Cina, almeno agli occhi dei cinesi, non le autorità, parlo della gente. Del resto è impensabile che la Cina rinuncia a un'area che occupa il 13% del suo territorio, da cui nascono tutti i fiumi, acqua, energia, tutti i fiumi asiatici, ricca di materie prime e geostrategiche, insomma, amici che provano a darci informazioni ulteriori, al di là magari appunto della presa di posizione così un po' all'impronta, no? Perché poi faticosamente, ma il Tibet in queste ore è riuscito a riguadagnare le prime pagine dei giornali, in coincidenza con questo Capodanno che dura 15 giorni, ma che ha permesso al Dalai Lama di fare un appello che recita così: nella nevosa terra del Tibet per tradizione celebriamo il Capodanno con complessi rituali. Tuttavia, poiché lo scorso anno in Tibet centinaia di persone hanno perso la vita e migliaia hanno subito torture e detenzioni, quest'anno non è il momento per festeggiare con la solita gioia. Ognuno dovrebbe invece utilizzare questo periodo per azioni positive, perseguendo finalità virtuose. Il Dalai Lama continua poi dicendo che ordini provocatori sono stati dati per le celebrazioni del Capodanno. Appare quindi chiaro che l'intenzione sia quella di sottoporre il popolo tibetano a un tale livello di crudeltà che poi non sia più in grado di sopportare e che reagisca. Faccio appello al popolo tibetano affinché eserciti la pazienza. Abbiamo chiamato, abbiamo in diretta Alessandro Boesi, che è un etnobiologo, la disciplina che studia il rapporto tra uomo e natura, ed è un esperto di medicina tibetana. Soprattutto in questo frangente è un profondo conoscitore del Tibet, che ha visitato, anzi ha girato addirittura a piedi, mantiene contatti diretti con il Tibet e quindi ci può dare qualche informazione in più riguardo a quello che sta succedendo. Tutto, salve Alessandro. Buonasera a tutti voi. Prima di inoltrarci un momento nelle ultime notizie, vorrei un parere personale, un po' su questa sensazione che noi abbiamo messo in orbita nel programma oggi, ovvero che comunque poi com'è difficile mantenere a galla queste notizie, che poi quasi per forza naturale sprofondano, no, in un disinteresse e poi riaffiorano nel momento della grande crisi. Immagino che personalmente seguirai con una certa ansia questo su e giù, no? Certo, purtroppo è quello che è sempre accaduto e quello che accadrà probabilmente in anche questi stavolta. Casi, insomma, quando ci sono degli avvenimenti importanti come le Olimpiadi, l'attenzione è puntata sulla Cina e quindi anche sul Tibet. Poi quando si concludono per esempio le Olimpiadi tutto ritorna come prima, tra l'altro i cinesi l'anno scorso hanno chiuso il Tibet e quindi l'accesso alle informazioni, a quello che succede veramente nel paese, è abbastanza difficile. Tu hai qualche informazione recente? Ma sì, ho avuto proprio informazioni recentissime di Saigon questa mattina, di manifestazioni di protesta che sono scoppiate nella cittadina di Litang. Litang è una cittadina che si trova nella provincia del Sichuan, nella parte occidentale, quindi ancora in altopiano tibetano, che tra l'altro poi è il luogo dove io ho lavorato, ho vissuto qua per quasi un anno. Mm-hmm. Quello che è successo è che una ventina di tibetani hanno inscenato una manifestazione di protesta portando per le vie del centro di questa cittadina una grande immagine del Dalai Lama, e gli slogan erano Tibet indipendente, lunga vita al Dalai Lama, e inneggiavano un ritorno immediato del Dalai Lama in Tibet. Mm. Chiaramente la reazione delle autorità cinesi è stata subito immediata, i controlli sono stati molto severi, sono state arrestate queste persone e nessuno di loro è stato ancora rilasciato, e poi le forze di polizia locali sono state incrementate, ci sono restrizioni per i movimenti locali e addirittura le comunicazioni sono state, pare, temporaneamente interrotte per alcuni giorni tra la contea di Litang e il resto della Cina. Poi i tibetani hanno convocato tutti i tibetani, i capi dei monasteri principali, e li hanno avvisati sul fatto che ogni ulteriore tentativo di sommossa, di protesta, sarà represso molto duramente. Quindi la situazione mi sembra abbastanza tesa. Ecco, per concludere, per fare il punto oggi, poi ci torneremo nei prossimi giorni naturalmente, ma qual è, sulla base della tua esperienza e anche delle tue opinioni personali, la prospettiva, che cosa intravedi in atto nei giorni a venire? Ecco, è un bel problema questo, perché da una parte il Dalai Lama ha chiesto ai tibetani di non celebrare il Losar, ma di dedicarsi alle preghiere per tutti i tibetani che hanno sofferto lo scorso anno, che sono stati imprigionati, che hanno perso la vita. Dall'altro i cinesi vogliono invece che questo Losar si celebri regolarmente. Poi c'è il problema del 10 marzo, che è l'anniversario della insurrezione del 1959, e poi il 14 marzo, che è l'anniversario dell'insurrezione, delle proteste lo scorso anno. E poi c'è un altro problema, il 28 marzo, data in cui i cinesi hanno recentemente istituito una nuova festività, cioè i tibetani dovrebbero festeggiare la fine della servitù della gleba. Il 28 marzo del 1959 è il giorno in cui il governo tradizionale che reggeva il Tibet fino a quel momento è stato sciolto da parte delle autorità cinesi in seguito alla fuga del Dalai Lama. Quindi i cinesi tendono a screditare il governo tibetano tradizionale con istituendo questa festa. Va bene Alessandro, ti devo lasciare perché il programma si sta chiudendo. Resteremo in contatto, anche perché questa tua possibilità comunque di accedere a informazioni è estremamente utile e credo gradita a molti ascoltatori. Grazie ad Alessandro Boesi, che vi ricordo è un etnobiologo, un esperto di medicina tibetana, ma soprattutto un conoscitore del Tibet. Alleggeriamo un attimo l'aria che si era fatta piuttosto carica, insomma, per le notizie di cui abbiamo appena parlato, perché torna, ragazzi, torna il cane. Perché noi possiamo sapere tutto del cane per dimostrarvi la potenza di questo programma. Voi volete sapere del cane, noi vi diciamo, due telefonate alla Casa Bianca e abbiamo avuto immediate informazioni su colui, ancora senza nome, che, come dice questo simpatico comunicato, ruzzolerà per i prati della Casa Bianca. Un cane d'acqua portoghese, e arriverà ai primi d'aprile. Cosa sia un cane d'acqua portoghese ve lo lasciamo immaginare. Ma un bel bastardino non era meglio, non era cosa più semplice, non lo so, ma... Jefferson 2, l'arte della svolta, Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti e Fabio Cantadori a Roma e Milano. La mail jefferson2@radio24.it. Le pagine Facebook, non i siti, come mi ha tirato le orecchie qualcuno. Abbiamo due pagine, non abbiamo il sito, ma abbiamo due pagine. Una si chiama Redazione Jefferson 2 per parlare direttamente con noi, e l'altra è la bacheca dove discutere dei temi che mandiamo in orbita. Jefferson 2, Radio 24, Express Yourself. Wolf. Mezzanotte, l'orario della replica, lo trovate anche in podcast, in MP3, sul sito della radio, diretta domani alle 4, qui su Radio 24. 假象不是你们想象无所谓真假社会本来就是这样别误会有怎样别相信又怎样仿佛骑着游戏的人就心跳变价各个数学非常灵敏可以闻到很多东西却又色盲黑白分辨不清观众也就跟着相信最重要的是对得起自己不变的道理高手过招戴着面具显得我的动机先硬我回家去打坐取舍生涯性沉默的人最聪明不做无聊的